L'ultimo anticristo? Leggo nella Bibbia, nel libro di Daniele capitolo 7, versetti 6 a 8. Era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna. Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno, davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunziava parole arroganti. Versi da 20 a 25. Chiesi pure spiegazioni delle 10 corna che aveva sul capo, del corno che spuntava e davanti al quale ne erano caduti 3. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti e appariva maggiore delle altre corna. Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento, finché non giunse il vegliardo. Allora il potere di giudicare fu dato ai santi dell'Altissimo e venne il tempo che i santi ebbero il regno. Ed egli mi disse: la quarta bestia ha un quarto regno sulla terra, diverso da tutti i regni, che divorerà tutta la terra, la calpesterà e la frantumerà. Le 10 corna sono 10 re che sorgeranno da questo regno, e dopo quelli sorgerà un altro re, che sarà diverso dai precedenti, abbatterà 3 re. Egli parlerà contro l'Altissimo, esaspererà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà ad un tempo. Ancora leggo in Apocalisse capitolo 13, versi da 5 a 8. E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie, e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo, nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Il capitolo 7 di Daniele presenta i regni degli uomini come bestie fameliche che uccidono e sbranano. La quarta bestia, la più terribile, viene normalmente associata all'imperialismo di cui l'impero romano, con la sua politica espansionistica, è stato primo magistrale interprete. Come abbiamo letto, da questo impero sarebbero sorti 10 regni. E poi un undicesimo corno che si sarebbe fatto largo abbattendo 3 di questi re. Sarebbe stato molto arrogante nei confronti di Dio, avrebbe perseguitato i santi e avrebbe avuto il sopravvento su di loro per circa 3 anni e mezzo. Santi è una parola che indica una separazione per uno scopo specifico. Nel Nuovo Testamento si riferisce generalmente al popolo di Dio, appunto appartato per Dio, formato sia da ebrei che da stranieri. Tuttavia nel libro di Daniele, visto anche il contesto di giorni festivi e legge, è ovvio che il popolo dei santi sia un sinonimo del popolo di Israele. Qualunque sia l'identità di questo piccolo corno, siamo quindi certi che ha perseguitato o perseguiterà, se ancora non si è manifestato, il popolo di Israele. Gli studiosi hanno molteplici opinioni sull'identità di questo re arrogante. La mia convinzione è che si tratti di una descrizione di un re futuro, il cosiddetto anticristo, il cui regno nell'Apocalisse viene identificato come la bestia che sale dal mare. Come abbiamo appena letto, tale personaggio in Apocalisse viene descritto con caratteristiche che ricalcano quasi letteralmente la descrizione di Daniele del piccolo corno. Se ci pensiamo, l'imperialismo che è cominciato con l'impero romano continua tuttora nello spirito delle nazioni in cui oggi viviamo e potrebbe avere la sua massima espressione alla fine dei tempi. L'imperialismo romano non inglobò tutta la terra come previsto da questi versi, ma oggi, guarda caso, molti sognano il momento in cui ci possa essere davvero un unico governo mondiale e spingono in questa direzione. È possibile che questo avvenga e che magari la terra sia poi divisa in 10 parti o regni? È possibile che da questi sorga poi l'anticristo, la bestia di cui si parla nell'Apocalisse e che perseguiterà ancora i santi dell'Altissimo, calpestando Gerusalemme per 42 mesi, ovvero 3 anni e mezzo, cioè un tempo, due tempi e la metà di un tempo, come scritto in Apocalisse 11:1? A seconda della propria estrazione e formazione, molti saranno d'accordo con me e altri staranno invece scuotendo la testa in maniera decisa, non condividendo questi pensieri. Come dicevo, ci sono interpretazioni differenti sull'esaudimento di queste profezie e non è mia intenzione risolvere la questione in così poche parole. Ad esempio, molti studiosi, soprattutto nell'area protestante storica, identificano nei Cesari del primo secolo questo re arrogante che perseguitò il popolo di Dio e sono convinti che quanto affermato nell'Apocalisse ed anche in Daniele si sia già realizzato nel primo secolo. Vorrei però fare alcune considerazioni sulle quali spero, come cristiani, possiamo tutti concordare. Nella storia dell'umanità ci sono stati diversi personaggi che hanno perseguitato i santi, coloro che manifestano fede in Dio, che appartengono a Lui. Ad esempio, già nel secondo secolo avanti Cristo, Antioco Epifane, di lui è profetizzato ad esempio proprio in Daniele 8, aveva perseguitato ferocemente gli ebrei, entrando con arroganza in Gerusalemme, sconsacrando il Tempio, arrivando addirittura a sacrificare maiale sull'altare. Nel primo secolo i Romani hanno distrutto Gerusalemme, oltre a perseguitare duramente anche i cristiani. Addirittura il papato, non a caso spesso identificato dal mondo protestante storico proprio come l'anticristo, nel corso della storia ha perseguitato ferocemente coloro che non si sono assoggettati alla Chiesa di Roma. Durante la Seconda Guerra Mondiale molti hanno visto la figura dell'anticristo in Hitler e non possiamo biasimarli considerando il modo in cui Hitler ha perseguitato e ucciso gli ebrei. Quindi nel corso della storia molti uomini si sono comportati proprio come degli anticristi, ovvero persone che si oppongono a Cristo e perseguitano il popolo di Dio. Anche oggi in varie parti del mondo è pieno di persone che si comportano da veri e propri anticristi. La storia è piena di uomini arroganti che hanno sfidato Dio e hanno fatto del male al popolo terreno da cui Gesù è disceso e anche al popolo spirituale formato da tutti coloro che credono in Gesù. Non credo ci sia da stupirsi se alla fine dei tempi ci fosse ancora un anticristo, l'uomo del peccato di cui si parla in 2 Tessalonicesi 2:3, che perseguiterà ancora il popolo di Dio. Potrebbe essere proprio questa ultima grande persecuzione, anche conosciuta come grande tribolazione, che porterà la maggior parte di Israele a gridare a Dio e a riconoscere Gesù come Messia? Questo porterebbe all'esaudimento letterale di diverse profezie, ad esempio Zaccaria 12:10 o Daniele 12:1. Ciò che però dovrebbe incoraggiarci come credenti, al di là delle nostre convinzioni riguardanti l'escatologia, è il fatto che alla fine anche l'ultimo anticristo, chiunque esso sia, verrà sconfitto e finalmente Gesù il Messia instaurerà il suo regno. A quell'evento, che sarà oggetto della prossima riflessione sempre su Daniele 7, tutti coloro che credono in Cristo guardano con grande speranza. E tu, sei di quelli che attendono con fiducia il ritorno di Cristo?